secreto guardará. Che misterio hai in tuo pelo, che in tua forma deve essere, de scorrer mi si era il velo, che me llena di ansietà. Sé que te...